grandi cose. Mia madre ha l'ambrosia, tutti gli dèi del sacro cielo a lei si inchinano umilmente. Mia madre ha bagliore proprio, mia madre ha il fuoco e terra e mare, il mondo intero a lei rivolgono l'impegno. Mia madre ha fatto grandi cose, mia madre ha l'ambrosia, un'eroina del presente, in un presente inospitale. Mia madre è sempre sopra gli altri, mia madre e gli affanni, lei li trafigge con le armi, lei li distrugge con le arti. È un uragano che ti porta via e ti fa volare alto. Madre, che come un cielo aperto dalle nubi, mi guardi coi tuoi occhi belli e grigi, che comunicano tremola freschezza della sera e la rabbia dentro il cuore di una cagna che ha paura, paura che la vita non la colga fra le sue braccia e la butti via, ed intanto non ti accorgi dell'impero che hai creato e del segno che hai lasciato, non ti accorgi. Mia madre ha fatto grandi cose, mia madre ha l'ambrosia, dentro al suo calice di vetro, lei strega tutti quanti intorno. Mia madre ha preso il mondo in mano, mia madre ha il comando, e non importa quanto grande sia la sua magica creazione, perché mia madre ha fatto tanto. Mia madre ha fatto grandi cose, mia madre ha l'ambrosia e ne è la padrona. Madre, che come un cielo sgombro dalle nubi, mi guardi coi tuoi occhi stanchi e grigi, che comunicano tremola freschezza della sera e la rabbia dentro il cuore di una cagna che ha paura, paura che la vita non la voglia fra le sue braccia e la butti via, ed intanto non ti accorgi dell'impero che hai creato e del segno che hai lasciato, non ti accorgi. Mia madre ha fatto grandi cose, mia madre ha l'ambrosia, sono creature come lei che salveranno il mondo.